C. Ascolta e completa il testo. Luisa. Sono contenta di avere un lavoro mio. Non guadagno tanti soldi, ma va bene lo stesso. Quando sono al lavoro, ricevo gli ospiti, rispondo al telefono, aiuto i clienti, ma non lavoro al ristorante o al bar. Quando parlo con i clienti, indico i monumenti più importanti della città. Spiego dov'è la fermata dell'autobus o dove prendere un taxi. Fabio. Frequento la facoltà di lettere e filosofia. Sono uno studente a tempo pieno. Non lavoro, pratico molti sport: nuoto, atletica e calcio. Partecipo a gare di nuoto e a tornei di tennis. Invece, non sono in una squadra di calcio e quindi gioco solo partite amichevoli. Non passo molto tempo a studiare. Simona. Sono sempre all'università. La prima lezione comincia alle 8 e non facciamo pausa fino alle 13. Seguo tutte le lezioni. Molti studenti non seguono le lezioni e preparano gli esami a casa. Vado a lezione perché così imparo a conoscere i professori e forse loro all'esame riconoscono il mio viso e sono più generosi.